buongiorno a tutte e tutte. Finora da questi microfoni in quasi 50 puntate abbiamo raccontato delle miserie e splendori della scuola italiana, più miserie che splendori, e oggi invece abbiamo deciso di dedicare l'intera trasmissione alla matematica, alla didattica della matematica, prendendo un po' più che spunto da una ricorrenza molto particolare. Tra due giorni, dopodomani, compie 100 anni Emma Castelnuovo. Emma Castelnuovo è un nome, direi, noto a chi insegna la matematica, e forse invece è un po' meno noto, per non dire sconosciuto, a chi non si è avvicinato alla matematica e alla tutte le questioni inerenti il suo insegnamento. Abbiamo in studio una ospite, è Nicoletta Lanciano, che insegna qui all'Università La Sapienza di Roma, e a lei vorrei subito chiedere dei festeggiamento della celebrazione che si è tenuta ieri al Ministero proprio per i 100 anni di Emma Castelnuovo. Buongiorno. Buongiorno a tutte. Ieri presso il Ministero dell'Istruzione abbiamo festeggiato la consegna del premio della Fondazione Nesi a Emma Castelnuovo. La Fondazione Nesi di Livorno dedica ogni anno il premio a qualcuno che abbia lavorato per l'educazione e si sia impegnato nel sociale, e nella dichiarazione con cui il premio è assegnato ad Emma Castelnuovo quest'anno è scritto: perché ha dedicato la sua vita e la sua intelligenza alla teoria e alla pratica dell'insegnamento attivo della matematica come componente imprescindibile della formazione culturale del cittadino consapevole. E quindi ieri c'è stata questa bellissima cerimonia, perché, diciamo, anche se ospitata in un palazzo istituzionale, che per la scuola sì, ha un peso, insomma, molto anche a volte ambivalente. Sì, poi lo racconteremo. Però che è stato importante anche nella vita di Emma, poi magari racconteremo alcuni particolari. E in realtà la sala era piena di 150 suoi studenti dei suoi 40 anni di insegnamento e più, nel senso che lei dal 38 al 79 ha insegnato, e quindi c'erano già i primi studenti della scuola ebraica degli anni appunto 38-39 fino agli ultimi studenti con cui lei nella scuola media Tasso di Roma ha fatto tutti i suoi lavori e i suoi viaggi in giro per l'Europa. Non solo, ma studenti più giovani che, dopo che lei è andata in pensione, hanno partecipato e continuano a partecipare ai nostri corsi a cui lei ha preso parte attiva fino a che ha potuto, fino all'anno scorso, sì, fino a pochissimo tempo fa, di formazione in servizio degli insegnanti. Sì, allora diamo alcuni cenni per cominciare a capire chi è Emma Castelnuovo e il suo contributo nell'insegnamento della matematica, e non solo, io direi. Allora, Emma Castelnuovo ha come padre Guido Castelnuovo, un grande matematico a cui è dedicato il Dipartimento di Matematica della Sapienza, quindi gli studenti e le studentesse di matematica conoscono Guido Castelnuovo perché entrano nell'edificio a lui dedicato per studiare, ed è figlia anche di Albina Enriquez, che è sorella di Federico, quindi ha come zio un altro nome importante della matematica del Novecento. E nel 1936 Emma Castelnuovo si laurea alla Sapienza ed entra a assume il ruolo di bibliotecaria della biblioteca del Dipartimento di Matematica. Nel 1938 viene licenziata perché è ebrea, e dunque perde questo posto, come perde il posto la cattedra di insegnante di scuola secondaria nell'agosto del 1938, dopo averla regolarmente vinta, perché ebrea. E quindi dal 1939 Emma Castelnuovo è costretta, insieme alla famiglia, innanzitutto alla clandestinità, e quindi cambia abitazione, cambia la propria identità, il proprio nome, e però comincia a insegnare nella scuola israelitica, che comunque può viene organizzata con molte difficoltà, e da qui comincia il suo percorso, appunto, che tecnicamente finirà nel 1979, ma anche dopo, diciamo, fino a oggi il suo contributo all'insegnamento della matematica è stato fondamentale, e di questo parleremo. Il racconto di Emma Castelnuovo di questi anni è molto interessante, perché tocchiamo la storia con mano, perché ci dice tutte le persone che hanno aiutato lei e la sua famiglia a sopravvivere, a vivere dentro Roma, e anche ci racconta del 16 ottobre 1900, del rastrellamento del ghetto, dal quale lei si salva per via di una conoscenza al commissariato, e quindi, diciamo, riesce a sventare, a sfuggire. E queste esperienze io credo che segnino profondamente Emma Castelnuovo, e dunque quando riprende con la liberazione di Roma la vita, possiamo dire questo, lei ottiene una cattedra, e la cattedra è quella, come diceva Nicoletta, della scuola media Torquato Tasso. E vorrei far notare a chi ci ascolta che lei rimarrà in questa scuola per tutta la sua vita, e questo è un segno molto importante, io direi anche bello, perché in realtà noi potremmo pensare che insegnare alle medie, no, poteva essere, a quelle che oggi chiamiamo medie, potrebbe essere una carriera poco significativa, e avrebbe potuto ben aspirare a posizioni più alte, ma in realtà questo forse è anche questo è un segno del, come dire, del pensiero di Emma Castelnuovo. Emma Castelnuovo viene a contatto con i ragazzi di 11, 12, 13, 14 anni e capisce una cosa, capisce nel primo anno, capisce che l'insegnamento della geometria in particolare, della matematica, ma della geometria in particolare, così come viene fatto, così come deve essere fatto, è del tutto inutile, quasi fallimentare. Dunque parte per una rivoluzione che sembra molto piccola, ma che poi, come dire, condurrà lei e tutte le persone che verranno in contatto con lei, non è solo lei ovviamente, a intraprendere questa che è una piccola rivoluzione. E la geometria non può partire dall'astratto, attraverso il libro, il libro fondamentale che tutti noi conosciamo, gli elementi di Euclide, l'impostazione assiomatica che hanno gli elementi di Euclide, ma deve partire dal concreto, dalla realtà, dal laboratorio, dai materiali, dall'esperienza dei ragazzi. Questo è il primo vero grande messaggio che Emma Castelnuovo, scontrandosi con la realtà quotidiana di una classe di decine di ragazzi che devono capire cosa li circonda prima ancora di capire che cos'è un teorema, sostanzialmente. E in questo percorso ci saranno molti imprevisti, ma grandi avventure, e magari sentiamo dalle sue parole, se siamo in grado, i suoi pensieri relativi al 1945, quando lei capisce che la geometria astratta è del tutto inutile. Quando nel 1945 ho cominciato ad insegnare regolarmente, mi sono resa conto subito che il corso di geometria non interessava. Non è che rimanesse difficile, ma non dava certamente alcuno stimolo. Proprio in quel periodo mi è capitato di leggere un libro francese, un libro scritto nel 1741 dal matematico francese Alexis Claude Clairaut, dal titolo in francese Gli elementi di geometria. Dice nella prefazione che è chiaro che le persone trovano grandi difficoltà in questo inizio razionale. Lui è convinto che si debba cominciare con qualcosa di concreto. Porta allora l'attenzione sulla realtà che ci circonda, e cioè sull'interesse che si può avere nel calcolare l'area e il perimetro dei campi. Mi sono perciò resa conto che l'inizio del corso di geometria nel corso inferiore doveva partire dalla realtà, che non era in generale l'area e il perimetro dei campi, ma qualcosa, come dire, di più manuale. Ho dato perciò agli studenti, a questi ragazzini, qualcosa in mano, un materiale semplicissimo che portava a costruire. Con questa costruzione uno si rendeva conto dell'enorme differenza che c'è da un punto di vista tecnologico fra un triangolo, per esempio, e un quadrato. Il triangolo è fisso, rigido, il quadrato o il rettangolo sono articolabili. Ci si rende conto che, andando per la strada, che tutte le impalcature che vediamo per la costruzione di un edificio o di altre cose sono con una base triangolare. È il triangolo che aiuta, non è un rettangolo o un quadrato, perché questi slittano fra le mani e cambiano la forma. L'indirizzo ce l'ho, rintracciarti non è un problema, ti telefonerò, ti offrirò una serata strana. Pretesto lo sai, quattro dischi, un po' di whisky, sarò grande, vedrai. Fammi spazio e dopo mi dirai che maschio sei. Lui chi è? Come mai l'hai portato con te? Il tuo ruolo mi spieghi qual è? Io volevo incontrarti da sola, semmai. Mentre lui chi è, lui chi è, già è difficile farlo con te, mollalo. Lui chi è, lui cos'è, lui com'è, è distratto ma incerto di troppo. Mi aspettavo, lo sai, un rapporto un po' più normale. Quale eventualità? Trovarmi una collocazione. Ora spiegami, dai, l'atteggiamento che dovrò adottare. Mentre io rischierei di trovarmi al buio fra le braccia di lui. Non è il mio tipo. Lui chi è? Si potrebbe vedere. Allora, la geometria non è un reato, però questa impostazione ascoltata dalle parole della stessa Emma Castelnuovo di fatto sconvolgono, perché l'approccio sperimentale, operativo, questo insegnamento attivo di cui parla Emma Castelnuovo, lei lo presenta a un convegno al quale è invitato nel 1949 a Sèvres, vicino a Parigi, e non riceve una bella accoglienza, anzi viene allontanata. Perché? Perché Nicoletta? Allontanata dall'Accademia. Dall'Accademia. Però, uscita nel corridoio, viene raggiunta immediatamente da un giovane, un belga, che viene dall'esperienza dell'École de Crolly, dove un universitario geometra, peraltro casualmente allievo proprio del padre dello zio di Emma, Paul Libois, e questo giovane collaboratore di Paul Libois la ferma e le esprime invece tutto il suo compiacimento per quella impostazione della geometria. Da lì rinasce una collaborazione tra l'Italia e il Belgio, che appunto c'era stata a livello accademico dei geometri della generazione, diciamo, immediatamente precedente. E così per Emma comincia questo grandissimo incontro, che poi nel quale è coinvolto tutti noi. E questo incontro la porta poi a costruire le esposizioni di matematica con gli allievi, ma anche a valorizzare l'incontro tra università e scuola. Allora qui una mia nota autobiografica: io non sono stata allieva di Emma negli anni della scuola media, ma alla fine della mia carriera universitaria, quando stavo per laurearmi, e ho avuto la fortuna di essere invitata ad andare a svolgere un tirocinio nelle classi di Emma. Voleva dire andare esattamente tutti i giorni, sedersi nei banchi e ascoltare le sue lezioni, quindi non avere delle lezioni di didattica, ma vedere un buon esempio di lezioni di didattica, di vedere in diretta lei agire coi bambini, coi ragazzini della scuola media, non solo, ma riflettere, poi pensare cosa dire eventualmente ai genitori, come preparare i materiali. Io mi ricordo questo fatto: prima di entrare in classe, l'apertura degli armadi in cui lei sceglieva i materiali, appunto i triangoli e gli spaghi da portare poi in classe, come si armava di tutto il suo armamentario appunto per entrare in classe e fare queste lezioni molto partecipate. Ora, questa cosa di coinvolgere gli studenti universitari e andare a fare osservazioni nelle classi era un'invenzione sua e di Lucio Lombardo Radice degli anni 60. Anche questa tutta un'avventura contro le istituzioni, perché in un primo momento gli dissero semplicemente di no, che non era previsto, che gli studenti universitari non potevano uscire dall'università, andare nelle scuole, forse all'epoca non si diceva non c'è l'assicurazione, ma qualcosa del genere, insomma gli dissero di no, e loro dissero va bene, noi lo facciamo lo stesso perché ci crediamo, perché pensiamo che una vera tesi in didattica alla matematica non si possa fare senza essere andati a vedere come ragionano, come parlano, che difficoltà hanno i ragazzini di quell'età e che cosa fa l'insegnante, che cosa si inventa quando si trova realmente nella relazione didattica. Ebbene, in quegli anni io poi ho avuto la fortuna di vincere una borsa di studio del CNR per 2 anni, quindi sono stata in classe di Emma non uno ma tre anni, gli ultimi 3 anni della sua carriera scolastica. E beh, la cosa veramente bellissima è stata rivedere, rileggere completamente tutta la matematica accademica, anche quella che non avevo capito, che non aveva nessun senso, che era fredda, rileggerla e vederla prendere senso. Finalmente capivo che una derivata era la velocità di cambiamento di un andamento di una curva, che c'era dietro un significato che potevo vedere nella fisica, ma che potevo vedere in tante altre applicazioni di cui all'università non si era mai parlato. La matematica a colori, di cui parla Ubira Tandambrosio, che è un etnomatematico brasiliano eccezionale e nostro contemporaneo, beh, lui dice: nei paesi non a cultura occidentale c'è una matematica a colori, la matematica occidentale è in bianco e nero. Ecco, la matematica universitaria è più in bianco e nero dell'altra matematica, se è possibile. In classe di Emma la matematica riprendeva colore. Quindi, paradossalmente, per capire meglio la matematica, per entrare in profondità, una persona, uno studente universitario, un laureato in matematica università, va in prima media, in seconda media, in terza media a seguire delle lezioni a dei ragazzi dodicenni, undicenni. Questo è molto interessante perché è un'esperienza che anche io condivido, ho condiviso, nel senso quando si va all'università la matematica perde qualsiasi, semmai l'ha avuta negli anni precedenti, qualsiasi contatto, no, con la realtà, e diventa iperuranio, diventa una cosa fantascientifica. Può anche affascinare questa cosa, può anche interessare, però ti fa perdere gran parte, una cosa molto importante. Emma Castelnuovo dice questo, parlando sia della rivoluzione francese, quando in realtà la scuola si apre a tutti, ma l'insegnamento in particolare della matematica, così astratto, calato dall'alto e freddo, di fatto esclude una fetta importante di ragazzini che non riescono, per la loro estrazione sociale principalmente, non per le capacità, ad avere un supporto a casa per capire questa cosa. E nell'insegnamento anche attuale, io direi, perché le cose sono cambiate ma mica poi tanto, e anche nella sua esperienza che ha fatto in Africa, Emma Castelnuovo, e racconta appunto che questi ragazzi del Niger, la sua esperienza è stata in Niger dopo il 1979, chiamata dall'UNESCO, di fatto lei rompe anche lì questo rigido modo di insegnare matematica, che era quasi coloniale, nel senso che loro, i ragazzi, ricevevano un insegnamento della matematica in lingua francese, quindi una lingua non loro. La matematica francese, diciamo, l'insegnamento dell'impostazione francese è ancora più astratto tra tutte quella, diciamo, l'Europa. I francesi storicamente, no, hanno avuto hanno spinto molto per un insegnamento molto astratto della matematica, e dunque lei si è resa conto nella prima esperienza che era del tutto, come dire, era una cosa che tagliava fuori i ragazzi, e quindi per farli entrare dentro lei, vabbè, si è imposta anche, no? Assolutamente. E la prima volta che siamo stati in Francia con Emma, io ero appena laureata e avevamo portato una esposizione, e i giornali, c'era un grande convegno per gli insegnanti di matematica delle associazioni di tutta la Francia, e poi c'eravamo noi come ospiti con la nostra esposizione dei nostri tabelloni, dei materiali, delle esperienze prodotti, prodotti con le nostre tesi, quindi c'era la spiegazione dell'arcobaleno, insomma tutte, anche perché lei, ecco, questa è una cosa, vabbè, ne parlo dopo eventualmente, lei insegnava solo matematica e non scienze, ma questa è una cosa molto interessante. Però in quei giorni i giornali parlavano molto di questo convegno e di queste mostre, e i titoli erano tipo: matematica con la gioia viene dall'Italia. Cioè le nostre stanze, le stanze dell'esposizione di Emma, erano assolutamente diverse da tutte quelle dei vari gruppi francesi. Era decisamente un altro, si respirava un altro clima. C'era la realtà, c'era l'arte, c'era la natura, c'erano tutte cose che appunto interessavano, incuriosivano tutto questo pubblico, che era non solo di insegnanti ma anche di famiglie, di ragazzini, di genitori che venivano a visitare e che lì finalmente si appassionavano ai nostri stranissimi oggetti, biberon che fornivano l'acqua per i forni solari e cose del genere. E poi, quando lei è stata in Niger, invitata da una francese però molto radicata nel Niger, lì il problema era ancora maggiore, perché addirittura nella lingua madre del Niger, nelle varie lingue madri, molte parole matematiche non esistono. Non esiste la parola infinito, per esempio, non esiste la parola, non so, pari e dispari e così tante altre. Quindi già il passare al francese era per loro ovviamente un grandissimo sconvolgimento. Sì. In più questa matematica francese così astratta, così legata agli elementi di Euclide di cui parlavi prima. Tra l'altro c'è un bellissimo articolo che Emma ha scritto, che è pubblicato su Cooperazione Educativa del 2000, Oggi e Ieri, cioè un'analisi di quali sono stati gli allievi, diciamo in Occidente, dal bacino del Mediterraneo fino appunto alla Rivoluzione Francese, ai tempi nostri, gli allievi delle scuole alte, nelle scuole dove si è insegnata la matematica, finché gli allievi erano i figli dei nobili, certo, o erano i gesuiti, forse l'astrazione degli elementi di Euclide poteva anche avere un senso, e comunque potevano essere in qualche modo compresi. Ma nella scuola che vuole diventare scuola di tutti, dalla Rivoluzione Francese e poi parliamo degli ultimi tempi dopo la guerra e della scuola media unica, beh, la prospettiva è completamente un'altra, delle scuole multiculturali, delle scuole dei paesi appunto dove c'era il colonialismo, lì il desiderio era di far arrivare la cultura a tutti. Mm-hmm. Anche la cultura matematica, che è sempre stata una delle cose, Emma l'ha sempre detto, che schiacciano di più le menti. E d'altra parte il mercato delle ripetizioni in matematica è fiorentissimo. Perché? Sì. Perché evidentemente nelle ore di scuola quell'apprendimento è particolarmente non arriva. Sì. È evidente, ci sono delle colpe e molte sono non solo nei vari programmi che sono stati fatti, perché poi a un certo punto i programmi sono diventati bellissimi, ma gran parte il problema è nell'editoria. Certo. Infatti sì, volevo dire queste due cose. Uno, la scuola media unica, noi sappiamo con quale terrore gli insegnanti e le insegnanti hanno accolto, no, questa piccola rivoluzione, perché le parole che molti usavano erano, no, adesso questi i figli dei contadini, i figli dell'operaio che, sì, no, niente, ricordiamolo, insomma, la scuola media unica che è stata abolita nel 62, quindi credo dal 1 gennaio del 63 è entrata in vigore la legge, è quello l'anno, no? Sì, non mi sbaglio, l'anno, ricordo, del centro-sinistra, sì. E del primissimo e appunto quello che dicevi te, appunto avevamo come se una lettura in comune sulle vestali della borghesia. Si scriveva appunto questo fatto, cioè che gli insegnanti e le come dovevano relazionarsi con questi nuovi studenti che non erano quelli non già erano i figli della borghesia, sì, e quindi quelli che avevano libri a casa, libri che a avevano casa. Parlavano italiano già prima di andare a scuola, che sapevano far di conto, e Emma Castelnuovo questo anche il padre se lo sono posto molto prima che degli anni 60, e quindi la riflessione su come devo insegnare, cosa devo insegnare, da cosa devo partire, se l'era già posta, e Emma Castelnuovo poi contribuirà alla stesura dei programmi del 1979, che sono da un lato aperti, molto liberi, perché non sono dettagliati, prescrittivi, e però spiazzanti per quegli insegnanti che invece hanno bisogno di che qualcuno dica loro cosa dire e cosa fare. E qui l'altro problema grosso, che è quello della formazione degli insegnanti. Allora, su questo Emma ha fatto una battaglia un po' vinta e un po' persa, perché lei pose immediatamente la questione: io sono laureata solo in matematica, non posso insegnare anche correttamente biologia, fisica e le altre scienze. La sua battaglia voleva essere ovviamente una battaglia per tutti, cioè una battaglia per la formazione, per una formazione adeguata di tutti gli insegnanti. Certo. E invece le diedero, diciamo, in qualche modo un contentino, dicendo: va bene, tu sei esonerata. Però in questo modo hanno risolto ovviamente la sua questione, sì. Ma per lei era una questione di principio, quindi in realtà quella questione lì è rimasta aperta fino al 2000, quando era cominciata la formazione finalmente universitaria degli insegnanti, mettendo l'Italia, diciamo, in una posizione che in altri paesi è normale. Dopodiché la storia recente ci dice che quell'esperienza è stata interrotta, l'altro anno è stata ripresa in modo assolutamente mediocre e interrotta senza dare avviso a nessuno, con una omissione da parte, diciamo, del ministero, sì, totale, perché nessuno è stato avvisato che quest'anno questo progetto non sarebbe andato avanti. Sì. Sì, fra l'altro questo, insomma, delle doppie cattedre è un problema che non riguarda nemmeno solo la matematica e le scienze, ma riguarda tante e tanti di noi, insomma, laureati in storia che devono insegnare filosofia o viceversa, le cattedre di lettere che hanno dentro 4-5 materie: storia, geografia, italiano, latino, eccetera. E ovviamente ognuno di noi è laureato in una materia, insomma, non geografia, che è molto lontana, per esempio, dalla formazione di molti di noi che insegniamo lettere. Addirittura, voglio dire, per dire, può sembrare una cosa micro, ma noi insegniamo la preistoria, ma la preistoria non si studia a lettere e a storia, si studia in un'altra facoltà, ma la insegniamo noi, insomma, è tutto. Il problema sarebbe quello di avere dei corsi di laurea dedicati alla didattica, certo. Ma se osserviamo nella nostra scuola, nella nostra università, in che conto viene tenuta anche la didattica universitaria, ma comunque la ricerca in didattica rispetto alle scuole secondarie, certo. Beh, insomma, ci rendiamo conto che qui la battaglia è veramente tutta ancora sì, aperta. La didattica della matematica nasce nel 68, diciamo, come disciplina, quindi neanche si pensava che potesse essere una disciplina la didattica. E poi che volevo dire che mi sono perso. Mentre ti ritrovi, io direi che sì. Mettiamo una canzone, anche perché abbiamo un altro intervento, forse è il momento di cominciare a dargli parola. Sì, abbiamo un altro ospite. Il Colosseo. Loro chiedevano a tutti i bambini che sono amici di tutti i gattini, un pasto al giorno e all'occasione poter dormire sulle poltrone. 44 gatti, fino per 6 con tutti e due, si unirono con gatti, fino per 6 con tutti e due, coi baffi allineati, fino per 6 Torniamo in diretta, questi sono gli 87.9 di Radio Onda Rossa, questa è l'ora di buco, lavoratrici e lavoratori della scuola parlano di scuola e oggi parliamo di Emma Castelnuovo. Dovremmo avere in collegamento telefonico un altro ospite. Pronto, ci senti? Pronto, Franco? Franco non ci sente, quindi ci darete altri 2 secondi per ripristinare il collegamento. Pronto? Allora, abbiamo in collegamento radio Franco Lorenzoni, che è stato alunno di Emma Castelnuovo e poi è diventato insegnante. Pronto, Franco? Pronto, sì. Ciao, sento. Franco. Allora, tu a 11 anni incontri Emma Castelnuovo? Sì, io ho fatto le medie con lei per 3 anni, nel 63, e devo dire che quello che ricordo di quegli anni per me è fortissimo e molto presente, nel senso che lei era una persona veramente molto particolare. Innanzitutto aveva un entusiasmo e un rigore assolutamente sconosciuti, diciamo, almeno io non ho mai incontrato nella scuola prima e non ho incontrato nemmeno dopo. Lei arrivava a scuola sempre puntualissima, non c'è stato mai un solo giorno che non è entrata prima di noi in classe. E ogni volta portava qualche cosa, era come se avesse un'urgenza, perché ci voleva mettere in una situazione in cui eravamo chiamati a scoprire qualcosa. C'era come una specie di tensione che lei trasmetteva, perché tutti noi, tutti i ragazzi, anche molto diversi ovviamente, c'era chi è passato per la matematica, chi meno, però tutti quanti erano coinvolti sempre in qualche modo un problema. Ma ripresentarci i problemi era sempre legato alla realtà. Adesso faccio un esempio, diciamo, ci faceva vedere che entra dalla finestra, per dire, c'erano questi grandi finestroni con finestre rettangolari, e ci faceva ragionare su che cosa succedeva, cioè questi quadrilateri che stavano a terra e che naturalmente si spostavano, si muovevano col cambiare della posizione del sole, ci faceva ragionare su quali proprietà geometriche rispettassero, quali invece modificassero rispetto ai quadrilateri, ai rettangoli in cui era fatta la finestra. Oppure ci portava, questo è un esempio che immagino anche altri hanno fatto, cioè portava sempre spaghi, elastici, chiodi, cioè modi di costruire figure geometriche facendocene vedere le trasformazioni, perché questo è uno degli aspetti, diciamo, cruciali del suo metodo: lavorare con le mani, ma soprattutto vedere la geometria sempre in movimento, la dinamicità delle figure. Lei diceva, si può capire qualcosa delle figure geometriche se le si trasforma, se se ne vedono anche i tratti limite, no? C'è il rettangolo che piano piano, fatto da uno spago, che piano piano si assottiglia fino a schiacciarsi, la base si schiaccia, l'altezza diventa zero. Questo ci fa intuire il fatto che, per esempio, un rettangolo fatto con uno spago, quindi con un uguale perimetro, in realtà l'area di tutti i rettangoli possibili che si possono fare con un solo perimetro, con un solo spago, le loro aree sono differenti. L'area massima poi è quella del quadrato. Ma diciamo, la cosa interessante del suo stare con i ragazzi era la grande attenzione che dava a tutte le idee che a noi ci venivano in mente. C'è una cosa molto bella che dice in un'intervista che gli ho fatto nel 2007, che io domando, ma tu come preparavi le lezioni? E lei risponde dicendo, ma io in realtà le preparavo poco. Questo poco è interessantissimo, perché in realtà noi sappiamo che lei ha dedicato tutta la vita, assolutamente tutta la vita, a preparare la qualità delle sue lezioni, perché ci ha ragionato. C'è un testo bellissimo che è La didattica della matematica, sì, in cui esattamente lei ragiona punto per punto che cosa più è adatto insegnare a 11 anni, di cosa i ragazzi si possono appassionare, di cosa invece i ragazzi non possono appassionarsi. Lei ha lavorato anche con Piaget, ha lavorato, diciamo, quindi ha studiato molto, non solo matematica ma anche psicologia, anche, diciamo, coloro che ragionavano su cosa è più adatto a insegnare a una certa età. Bene, rispetto a questo, diciamo, questa enorme competenza, però lei dice, io la preparavo poco, e quel poco sta a indicare che lei lasciava molto spazio a quello che poi sarebbe successo in classe, cioè quello che succedeva concretamente quando lei poneva un problema e come reagivamo noi. Questo a noi dava la sensazione fisica, emotiva, di dire, noi stiamo scoprendo qualcosa. Ed effettivamente i suoi allievi hanno scoperto delle cose, non hanno scoperto nuovi teoremi, ma hanno scoperto nuove metodologie per arrivare alla risoluzione di un problema. E questo, secondo me, trasmette un'idea della matematica come cosa viva. Perché l'altro aspetto che curava tantissimo Emma era la storia della matematica. Ci ho trovato un brano bellissimo in cui lei dice, paragona, dice, bisogna ripercorrere per capire la matematica ciò che hanno fatto i nostri antenati quando hanno cominciato a inventare la geometria, per esempio per misurare i terreni, o hanno cominciato a inventare i numeri misurando le quantità di pecore che tornavano all'ovile alla sera. Ecco, lei dice, in realtà questa è una cosa adatta ai principianti, perché anche il primo uomo o donna che ha misurato un terreno, contato una pecora, anche lui era principiante. E mi sembra bellissima questa diciamo, ellisse che lei fa, cioè, diciamo, pensare che la storia di come l'umanità ha percorso il processo di conoscenza, riportata nella scuola, ha un grandissimo valore euristico, cioè i ragazzi sono portati a immedesimarsi in questa grande storia. Lei anzi dice una frase ancora più forte, perché dice, solo la scuola separa questa cosa che è evidente, cioè che ogni ragazzo in realtà, imparando, sta ripercorrendo in qualche modo, ovviamente in condizioni diversissime, ma sta ripercorrendo in qualche modo qualcosa che è avvenuto nella storia del rapporto tra l'umanità e la conoscenza. Ecco, questo in Emma era sempre molto forte: la storia, il bisogno di grande libertà di pensiero, di intenzione, e anche una grande etica nel senso che lei poi, come dire, le interessava, le appassionava molto la matematica, ma in realtà lei le interessava tantissimo che noi fossimo delle persone libere, cioè che lei stava formando dei ragazzi, delle ragazze che avrebbero dovuto vivere la loro vita col massimo di apertura mentale. In lei non c'è mai stata l'idea: se tu sei bravo dovrei fare matematica, dovrei fare il matematico. No, a lei interessava che noi fossimo delle persone un po' più aperte. Ecco, l'apertura della mente era il cuore del suo insegnamento. Senti Franco, questo per me è molto... questo insegnamento te lo sei portato dietro e dentro, perché adesso come insegnante tu, come dire, lo applichi, dal primo anno che ha insegnato, mi pare, nell'elementare della Magliana, fino alla casa laboratorio di Cenci, credo, è una, come dire, una applicazione di questa idea di libertà e di rigore, di piacere e di fantasia? Sì, di piacere e di conoscenza, più che fantasia, cioè nel senso che lei dava il sapore dell'immaginazione alla conoscenza, perché spesse volte la fantasia si contrappone al rigore, no? Come se fosse da una parte il rigore e da una parte la fantasia. Invece quello che lei insegnava era proprio il fatto che più uno cerca di dare parole precise, lei aveva sempre una grandissima attenzione al linguaggio, più uno dà parole precise ai suoi pensieri e più può andare lontano. Per me, per esempio, mi ha sempre colpito, la cosa che più mi sta a cuore di quell'insegnamento di Emma è il ragionare per assurdo. Lei ci insegnava a ragionare per assurdo, cioè a ipotizzare cose che non ci sono, non esistono, e questo è una cosa fondamentale della vita, cioè nel senso che è la possibilità di immaginare qualcosa che ancora non c'è. In questo la matematica può essere alleata dei più grandi azzardi, e questo è un peccato, perché invece molte volte nella scuola la matematica viene vista come la grande materia ordinatrice del mondo, che in parte lo è naturalmente, o semplificatrice del mondo. Ma c'è un altro aspetto della matematica che invece è l'invenzione pura, andare oltre anche quello che la realtà stessa ci mostra, ci fa vedere. C'è un piccolo dettaglio che voglio raccontare perché mi sta a cuore. Allora io nel 70, sì, mi sembra nel 1970, fui espulso da scuola perché facevo molto casino, erano quegli anni, insomma c'era stata un'occupazione da parte della polizia, noi protestammo, occupammo la radio, eccetera, e io fui espulso per un anno, insomma tutte le scuole, gli attreni, si diceva così, la legge diceva così. Ma mi mandò una lettera, diciamo 17 anni, mi mandò una lettera con due frasi solamente, dicendo: caro Franco, ti sono vicino, ti ringrazio per quello che stai facendo per la scuola. A me colpì tantissimo, in realtà, perché in quel momento pensavo tutt'altro che, cioè, di non fare niente per la scuola. Io volevo fare la rivoluzione, volevo cambiare tutto. Ma lei era molto più lungimirante di me, cioè diciamo in quel gesto, in quella nostra ribellione che poi era il 68, il dopo 68, quello che è successo nelle scuole negli anni successivi, lei vedeva qualcosa che poteva prefigurare una scuola migliore. Io di questo le sono stato grato, nel senso che poi io allora certo non lo immaginavo, poi in realtà invece sono dedicato tutta la vita alla scuola. E insomma, non so, era un'intuizione che lei aveva avuto. Poi il nostro legame si è molto consolidato negli anni, soprattutto quando ho cominciato a insegnare, come dicevi te, ho insegnato alla Magliana, poi insegno nella scuola elementare di Giove ormai da 25 anni. E diciamo lì è chiaro che quando ho cominciato a insegnare, tutte le cose che avevo vissuto con lei per me sono state la base. Ovviamente insegnavo alle elementari, non alle medie, quindi è tutto diverso, però è chiaro che diciamo ho provato tutta la vita a imitarla, insomma è stato chiaro che quando sono con i ragazzi la cosa che più mi piacerebbe è che loro acquisissero questo spirito di libertà, no? Senti Franco, ti devo dire, sì, stiamo agli sgoccioli, però volevo farti questa domanda. Oggi torniamo all'oggi, e cosa un insegnante deve fare, come un insegnante può applicare questa idea dell'insegnamento, questa idea di libertà, in un contesto, in un sistema che è fondato, come sai benissimo, da prove invalsi, voti da quando nasci, programmi tutti uguali, libri tutti uguali, merito, valutazione, come si può resistere in una scuola di oggi? Allora, la prima cosa che io consiglierei a un insegnante giovane o comunque diciamo che voglia provare a trasformare qualcosa nella scuola è farsi degli amici. In che senso? Diciamo nel senso cercare qualcun altro che sta provando la stessa cosa o cose simili. Adesso ha parlato Nicoletta oggi lì che rappresenta, anch'io faccio parte del movimento di cooperazione educativa. La cooperazione nell'educazione è cruciale, fondamentale, perché la cosa più triste e che impedisce diciamo l'innovazione è quando ci sentiamo soli, quando ci sentiamo isolati. Dopodiché quello che consiglio è provare almeno una cosa che veramente ci sta a cuore e su quella cosa provare a farne una leva per il cambiamento, perché la scuola ha bisogno di grande apertura mentale, di grande cultura. Ecco, quello che io vedo che mi avvilisce tanto è pensare che tutte queste cose che si fanno, adesso ha un enorme valore spropositato alla valutazione, alle valutazioni aggettive, alle prove invalsi, sembra che tutto l'impianto scuola serva per poter misurare qualcosa rispetto a quello che fanno i bambini. Ah, sicuramente misurare è importante quando si educa, ma la cosa cruciale è se qualcosa che facciamo è vivo o non è vivo. I ragazzi oggi escono dalla terza media, purtroppo, in stragrande maggioranza, non avendo più desiderio di conoscere, non avendo più desiderio di imparare. Troppi ragazzi a 14 anni pensano che la conoscenza non valga la pena, non appartenga a loro, alla loro vita. Allora il punto cruciale è se si è aperti o non si è aperti alla conoscenza, e in questo qualsiasi insegnante, qualsiasi materia insegni, può fare un po' di differenza se ci mette innanzitutto passione, insomma, se lui crede in quello che fa, perché poi in fin dei conti questo è il punto cruciale. Se noi crediamo in quello che facciamo e ci mettiamo qualcosa diciamo di noi profondamente, è molto probabile che i ragazzi reagiscano positivamente. Grazie per il tuo intervento. Va bene. Ciao, allora, e adesso sì, chiudiamo con Nicoletta, con la nostra ospite qui in studio. E ricordiamo a chi si è collegato da poco che stiamo celebrando i 100 anni di Emma Castelnuovo, e quindi si parlava di cooperazione. Noi abbiamo lavorato in cooperazione educativa per l'appunto in modo molto trasversale. Intanto Franco insegna nella scuola elementare, Emma ha insegnato nella scuola media, io insegno all'università, alcuni dei nostri amici insegnano nella scuola dell'infanzia e non solo, ma alcuni insegnano nelle scuole nei centri territoriali permanenti dove ci sono tanti stranieri, alcuni insegnano nelle scuole di provincia, di grandi città, altri insegnano nelle scuole di tutto il mondo. E diciamo tutta questa trasversalità è una grandissima ricchezza. Emma su questo è stata un grande ponte, un grande veramente una donna che ha messo in relazione tante persone diverse. Mi piace dire che i suoi amici sono diventati i nostri maestri, i suoi amici sono Talete e Pitagora, ma poi sono stati appunto Polliboa che nominavo prima, Annie Bertè che l'ha invitata in Niger, e poi appunto tutti noi più giovani che invece abbiamo lavorato con lei negli ultimi anni. E a proposito della cooperazione educativa volevo indicare un'altra cosa: il premio che Emma ha ricevuto ieri, questo premio della Fondazione Nesi, ha una parte monetaria che in parte è stato destinato da lei alla solidarietà con le insegnanti africane che a luglio verranno in Italia per un grande incontro di educatori di tutto il mondo che fanno parte della rete della pedagogia Freinet. Si tratta di un incontro che si fa ogni due anni in un paese del mondo e per 10 giorni, quest'anno sarà a Reggio Emilia, quindi tocca a noi, tocca all'Italia organizzarlo, e è un'occasione molto particolare per incontrare, veramente per aprire la mente, per vedere come anche in paesi l'Uruguay, Haiti, paesi, oppure i paesi della colonizzazione francese, il Camerun, il Benin, il Burkina Faso, paesi che hanno vissuto, che hanno delle storie della scuola, della società, del vivere comune, del costruire la scuola, completamente diversi dai nostri. Il Giappone, la Palestina, verranno da Gaza. E, insomma, è un'occasione molto molto particolare di lavorare insieme. Allora, una delle cose che stiamo facendo per preparare questo incontro, che sarà dal 21 al 30 luglio a Reggio Emilia, e se ne può sapere qualcosa sul sito ridefitalia.org, è la preparazione di un libro scritto a tante mani e in tante lingue, un libro che ha questo titolo: Non tacere, diritti dell'infanzia negati, diritti violati, diritti restituiti. Quindi la richiesta è a tutti, bambini, classi, insegnanti, genitori, educatori, di contribuire a questo testo scritto in tante lingue e a tante mani sui diritti dell'infanzia, quei diritti che sono stati sanciti dalla Convenzione dell'ONU del 1989 e che tutti i popoli, anche tanti stati, anche l'Italia ha sottoscritto, ma che è assolutamente violato. Per esempio l'articolo 12, che dice più o meno ogni volta che si prende qualche decisione che riguarda l'infanzia è necessario chiedere ai ragazzi dell'età interessata il loro parere. Su questo siamo tutti fuori legge. Allora, e noi siamo fuori tempo, quindi dobbiamo chiudere e non so, chiudiamo. Sì, ringraziamo Nicoletta Lanciano e Franco Lorenzoni per il loro intervento e un grazie a tutti voi. L'appuntamento è per martedì prossimo, sempre sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, sempre alle 16. Nel frattempo vi aspettiamo qui in via De Volci 56 per prendere la vostra copia di Scarceranda, che vi aspetta, e lasciamo i microfoni al martedì autogestito da Femministe e Lesbiche. Ma prima auguriamo buon compleanno a Emma Castelnuovo in un paio di versioni. Say this gig sucks. Hey, up your Springfield. 1, 2, 3, 4. Go to hell, you old bastard. Happy birthday to you. Happy birthday.